Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, Idee anticrisi. La moda 3.0 ha molto più che un solo significato estetico. Ci sono mondi che attraversano le collezioni e soprattutto c'è maggiore attenzione allo spreco. Ci sono storie che valorizzano settori colpiti nel profondo dalla crisi e ci sono iniziative che fanno di necessità virtù. Come d'abitudine faccio seguire a queste parole i fatti e vi parlo di due storie che in concreto hanno innovato la moda attraverso le difficoltà. Per questo si parla di resilienza e cambiamento. Benedetta Bruzzikes è una designer di borse che, come si dice, si è fatta da sé. Ha 28 anni ed è arrivata la sua settima collezione di borse. La produzione viene in Toscana, Santa Croce sull'Arno, poi piano piano gli ultimi ritocchi dell'assemblaggio da altri artigiani. La sperimentazione e la ricerca si consuma in casa a Caprarola, tra le mura domestiche, in un comune di 5.000 anime del basso Viterbese. Fa lavorare di nuovo un intero distretto che era caduto nel baratro della crisi. Da lì è partita e lì è tornata, dopo l'India, Dubai, Cina e Brasile. E ora Benedetta Bruzzikes ha clienti del calibro delle Gallerie Lafayette di Parigi. Diciamo che è un po' un'avventura, perché io ho lavorato a Milano, lavoravo da Romeo Gigli, subito appena finita la scuola di moda, e poi per caso ho conosciuto un uomo in un ascensore a Bologna. Ho incontrato questo indiano in questo ascensore che mi ha proposto di andare a lavorare per lui in India a disegnare borse per un brand di lusso. Se non fosse che io fino a quel momento non avevo mai fatto borse, in realtà facevo abbigliamento, per cui mi sono improvvisata designer di borse e sono partita l'avventura in India. Secondo me quello per me è stato un momento fondamentale, perché è stato il momento in cui mi sono resa conto che tutto è possibile. Quanti anni avevi? Avevo 23 anni. Ecco, hai appreso l'arte e l'hai messa da parte, e com'è che sei ritornata in Italia a fare quello che stai facendo? Per cui ho disegnato questa prima piccola collezione di borse e ho fatto il giro di tutti gli showroom di Milano per cercare uno showroom che la vendesse. Poi ovviamente una ragazza, insomma, giovane di 23 anni, faceva molta simpatia, la collezione anche era molto bella, soltanto che poi ovviamente questi grandi showroom difficilmente si fidano anche a prendere la collezione di una giovane sconosciuta. E quindi ho cominciato a venderla da sola, per cui abbiamo cominciato con queste fiere e lì sono arrivati i primi clienti internazionali, e adesso a distanza di 4 anni abbiamo un pacchetto clienti che dà grandi soddisfazioni. Ecco. A quanti siete arrivati? Abbiamo in questo momento più di 100 clienti in tutto il mondo, e comunque si ha a un bellissimo livello, perché si tratta dei negozi più belli del mondo, da grandi department store come Gallerie Lafayette, 10 Corso Uomo a Milano. Abbiamo cominciato adesso da questa stagione a lavorare per esempio con uno showroom molto importante a Londra. I nostri mercati di maggior riferimento in questo momento sono ad esempio la Corea, la Cina, gli Emirati Arabi e la Russia, e dalla prossima stagione stiamo già pensando di organizzare delle presentazioni invece negli Stati Uniti, per cercare di sviluppare un po' anche quel mercato. Che cos'è che ti ha aiutato per far capire appunto anche ad altri come si fa? Secondo me la cosa che ci ha aiutato soprattutto all'inizio è stato il fatto di essere un po' una realtà che stava comunque al di fuori della moda, nel senso che il mio essere per esempio una ragazza di Caprarola, per cui una ragazza che viene da un contesto completamente estraneo poi a quello che è quello della moda, secondo me è stata una cosa molto positiva e che ci ha aiutato, in quanto ci ha dato modo di comunicare sia il brand, sia il marchio, che la storia che c'era dietro, in una maniera molto semplice, non so, per farti capire. Noi la prima collezione che abbiamo presentato l'abbiamo presentata in questa fiera a Parigi che si chiama Tra Noi. Non avevamo, ti dico, assolutamente idea di come funzionasse, né di chi fossero poi i clienti che in realtà avessimo davanti, ma noi ci siamo presentati con i biscotti fatti da mia madre, i baci di dama, le nocciole. Il nostro motto era il tempo di un biscotto per guardare la nostra collezione, per cui con un approccio così semplice i clienti si fermavano, probabilmente anche un po' storditi dal fatto che fosse un po' una nota fuori dal coro, fosse un po' qualcosa di strano. Quindi la vostra prima squadra è stata, diciamo, la famiglia. Quanti eravate? Assolutamente, noi siamo 4 fratelli, di cui uno, Agostino, lavora attivamente con me a tempo pieno e si occupa di tutta quanta la parte della produzione, e gli altri due invece si occupano a tempi alterni delle spedizioni e anche parte dell'organizzazione della produzione. Poi c'è Angelina che si occupa per esempio del rapporto con i clienti. Diciamo che poi si sono aggiunti anche degli amici che hanno cominciato a lavorare con noi all'inizio, diciamo, abbastanza per scherzo, invece adesso sono diventati proprio un'opportunità di lavoro concreta, perché comunque l'azienda è in crescita e ci sono sempre più cose da fare soprattutto. E poi bisogna anche tenere in considerazione il fatto che noi in questo momento stiamo facendo un progetto di sviluppo del territorio, perché la nostra zona, che è la Tuscia, è una zona che ha delle enormi potenzialità artigianali che però purtroppo stanno scomparendo, anche perché gran parte delle aziende che prima facevano produzione qua stanno spostando le produzioni all'estero, per cui noi cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di ritrovare queste maestrie e applicarle per esempio alle borse. Non lo so, a Caprarola per esempio, per il mio paese, le signore del paese costruiscono i pannelli di Carmen, che è la nostra borsa più venduta, per cui faderanno bottoni, mettono bottoni. Per crescere sarebbe necessario comunque, come dire, avere dei gradini sui quali mettere i propri piedi. E voi per crescere avreste bisogno che anche l'Italia vi aiutasse, come state aiutando voi, come dire, il Made in Italy. In realtà io credo che in Italia in questo momento ci sia un po' una situazione di scoraggiamento che purtroppo ha un po' bloccato tutto. In realtà mi piace pensare che anche da qua si possono fare grandi cose, anche con i pochi mezzi che si hanno a disposizione. Io penso di essere forse anche un po' la dimostrazione del fatto che comunque, ecco, una ragazza di Caprarola, molto giovane, senza fondi, con l'aiuto della sua famiglia, che comunque è stata probabilmente l'incubator più importante di quel che aveva a disposizione, e con l'aiuto degli amici è riuscita a mettere in piedi un'azienda che in questo momento sta diventando un'occasione concreta di lavoro anche per altri ragazzi. E soprattutto considerare le start-up o comunque le giovani aziende come il futuro anche. Aiuta le famiglie a risparmiare perché i bimbi cambiano taglia, la velocità della luce, ma soprattutto aiuta a non sprecare e a vestirli bene in un virtuale mutuo soccorso tra genitori a distanza. Come? Tiriciclo è una catena di negozi in franchising per l'abbigliamento e le attrezzature nuove e second hand per i bambini da 0 ai 14 anni. In controtendenza, il brand ha registrato per il 2012 un fatturato attestatosi intorno al milione di euro, 7 nuove aperture e un piano di sviluppo per il 2013 che prevede la nascita di negozi anche in Europa. Massimiliano Monti di Adria, fondatore del brand Tiriciclo. Ah, l'idea è sostanzialmente proprio quello di dire: i bambini crescono alla velocità della luce. Tiriciclo infatti è specializzata nell'abbigliamento e attrezzature per bambini da 0 a 14 anni. Non fanno a tempo a rovinare le cose che indossano o che utilizzano. Noi a questo punto ci interfacciamo e andiamo a mettere in vendita le cose che non vanno più bene a loro, che sono ancora di ottima qualità e fattura, e andiamo banalmente a potergli vendere le cose per le nuove esigenze che hanno in quel momento perché sono cresciuti. Da noi obiettivamente può comprare mediamente con una riduzione del prezzo che è del 50%. E le dico questo, esempi, ma succedono tutti i giorni, di persone che arrivano nei nostri negozi, entrano non rendendosi conto di dove stanno entrando, perché di fatto da un punto di vista estetico è riconducibile in tutto e per tutto a una boutique, dall'allestimento, dalla profumazione all'interno del punto vendita che è stata creata da un famoso maestro profumiere, all'esposizione dei capi. Uno banalmente entra e sembra che di entrare in una boutique del nuovo. Nel momento in cui prendono in mano il cartellino del prezzo si rendono davvero conto che c'è qualcosa di diverso. Non tanto perché il capo ha qualche difetto, quanto perché il prezzo è nettamente diverso rispetto alle aspettative. Chi è che ha aiutato voi fin dall'inizio, dalla nascita, e poi come vi siete sviluppati in franchising? Ci siamo fatti aiutare dai migliori esperti in ogni singolo settore. E quindi abbiamo messo insieme questo pool di aziende che ci hanno permesso di costruire il modello di riciclo che oggi potete valutare attraverso i nostri negozi. Quindi il modello è stata una rete tra aziende, ma i capitali da dove sono arrivati? I capitali sono, ahimè, arrivati personalmente, visto che comunque sia il sistema bancario già nel 2009, da quando è partito il progetto, non è che fosse così florido. Oggi devo dire me è ancora meno, per cui abbiamo creduto da imprenditori veneti quali siamo fortemente nel progetto. Abbiamo testato questo progetto a Treviso proprio per metterlo in difficoltà fin dall'inizio, perché Treviso è la sede dell'80% delle aziende moda bambino, per cui le clienti, le mamme generalmente non vanno a comprare nei negozi ma vanno a comprare direttamente negli spacci. Quindi sono abituate a comprare cose di grande qualità a mediamente il 30% di sconto. Quindi Tiriciclo è nata a Treviso perché? Perché ha un 50% di sconto, non tanto in funzione del negozio, ma quanto in funzione degli spazi che ci sono qua attorno. Quindi se funzionava a Treviso, come poi di fatto è stato dimostrato, a questo punto non poteva che funzionare in tutto il resto dell'Italia e oltre. Quindi l'investimento per entrare appunto tra i vostri negozi di franchising iniziale quant'è, e parliamo di numeri? Per entrare nel mondo Tiriciclo dove diamo un allestimento anche completo del negozio, dove la sensazione di boutique è data proprio anche dalla cura dell'allestimento e dagli arredi che ci sono all'interno, oltre che evidentemente alla qualità della merce che non deve mai mancare. Per fare ciò ci vuole un investimento circa 30.000 euro per un punto vendita di circa 70 metri quadri con mediamente 20 metri quadri di magazzino. Quanto guadagnate e come guadagnate? Noi guadagniamo evidentemente sulla vendita dei capi e delle attrezzature che sono state portate in controvendita dai fornitori privati, che banalmente sono i genitori. Il nostro negozio trattiene il 55% del valore che è stato pattuito e rimborsa il 45% al legittimo proprietario. E ora rinnova il tuo guardaroba delle idee. Queste le storie di oggi, ma se volete ascoltare le precedenti o scriverci Voci di Piccole Imprese su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa e il blog su www.radio24.it. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza, un saluto da Anna Marino.